Buonasera amici radioascoltatori, eccoci ritrovati anche stasera dalla Maison de Culture de Saint-Gilles a trasmettere la trasmissione I colori dell'anima su Radio Alma. Oggi è il 9 marzo del 2014. No, no, è il 10 marzo 2014. Ciao ragazzi, ciao a tutti Meno ragazzi. Male che ho il mio angelo custode che mi corregge. Bene, bene. E anche oggi siamo qui in diretta. Siamo Tiziana Leandro e però non Rossella c'è Rossella, che che salutiamo tanto. Ciao salutiamo Rossella! perché non sta molto bene ed oggi non ci ha potuto raggiungere. Quindi la salutiamo e sono sicura che ci sta ascoltando. Ciao Rossella, riprenditi presto, un grandissimo abbraccio. E fra i saluti in questo momento, insomma, non possiamo non salutare un nuovo acquisto della nostra trasmissione. Abbiamo la mascotte. Abbiamo la mascotte, ragazzi. Perché praticamente la nostra amica Serena Ferti è diventata mamma! Auguri Serena e benvenuta Caterina. Tantissimi auguri alla splendida Caterina, che speriamo di vedere presto qui a Bruxelles con Serena. Prima di tutto speriamo di sentirla. Magari già Davvero. dalla prossima volta faremo un collegamento e già inizieremo a sentire qualche gemito La della voce piccolina. radiofonica Sì, sì, di sì, sì, sì. Caterina. E allora, auguri a Serena. Iniziamo con la nostra trasmissione. Abbiamo due ospiti bellissimi stasera, ragazzi. Oggi due ospiti fantastici. Non so se avete già letto il titolo, è tutto un programma. Tra l'altro, oggi devo dire che a Bruxelles c'è stata una giornata bellissima. Sono diversi giorni che è arrivata la primavera in anticipo, quindi questo ci mette un'energia e una gioia enorme. Poi a noi sembra di essere in Sicilia, È vero, non vero. sembra vero. 20 gradi a Bruxelles il 10 di marzo è un miracolo, Sì, veramente. bellissimo. Felici con la gioia nel cuore, allora cominciamo la nostra trasmissione. Una trasmissione che è speciale perché, insomma, è una trasmissione che vuole lanciarvi una sfida che, grazie ai nostri ospiti, ci sembra che sia possibile, appunto. Impariamo a costruire ponti. Che dici, Ponti di Leandro? fraternità, esatto. E allora io direi che intanto possiamo dare un po' un pizzico di energia alla Ma nostra. aspetta, aspetta, intanto fammi introdurre un Ah, po' ok. l'argomento della Vai, serata. vai. Dammi 2 minuti. Dicevamo che vogliamo costruire ponti, vogliamo diventare ingegneri stasera. È vero. Perché lo vogliamo fare? Allora, perché come al solito noi cerchiamo sempre di trattare ai colori dell'anima un argomento che ci permetta di parlare dei colori, delle diverse sfumature di colori che ha l'animo umano. Quindi dare voce a delle persone che hanno qualcosa di bello da dire, qualcosa di particolare, con una sfumatura tutta loro. Ci siamo resi conto che forse se ne è parlato sotto altri punti di vista altre volte, però a noi non ci era mai capitato di parlare dei diversi colori che può avere l'animo umano, dovuti al fatto che siamo tutti diversi E ancora di più qui a Bruxelles ci capita di vedere che parliamo lingue differenti, veniamo da paesi differenti, quindi con mentalità differenti. A volte tutto questo può portare a dividere, se queste diversità, queste differenze possono essere viste come lontananza, come un problema, come qualcosa che nel momento in cui quello che non conosciamo inizia a farci paura. Però tutto questo può invece diventare un grande spunto di crescita, una grande risorsa per migliorarsi e per completarsi, se la diversità viene vista come un completamento della propria identità. E allora abbiamo deciso di parlare di ponti, ponti di fraternità, proprio per dare una lettura diversa a quella che è la diversità che c'è nel mondo tra le diverse culture, tra le diverse persone. E questa diversità può essere veramente una fonte di mutuo arricchimento, tale da far sì che da più che integrazione si possa addirittura ad arrivare a una vera e propria fratellanza, a una vera e propria fraternità. E in effetti gli ospiti che noi stasera vi vogliamo presentare Beh, secondo noi hanno fatto di questo, di questa ideale di fratellanza, proprio la loro vita. Ecco. E allora, aspetta, a questo punto mi sembra giusto, ora sì che è il momento, prima di addentrarci nella trasmissione e svelare l'identità dei nostri ospiti, direi di cominciare con una bella botta di vita, E vai! grazie di Irene Grandi, e lanciare la canzone Boom Boom di Irene Grandi che ha spopolato proprio nell'estate del 95 e ci diceva proprio che tutto il mondo è paese, siamo E milioni, spopola milioni di soprattutto a casa di case. Tiziana perché le piace tantissimo. Ragazzi, boom boom, Irene Grandi! Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio. Eccoci tornati dopo aver ascoltato questa bellissima canzone che a me dà sempre un sacco di carica, un sacco di E grinta. infatti ballava per tutta la canzone, Tiziana, in giro per lo studio. Sì, lo ammetto, mi dovevano tenere. Eccoci tornati su Radio Alma con i colori dell'anima e ricordiamo i numeri, scusate, mi sono dimenticata di dire i numeri all'inizio della trasmissione. Rossella, lo so, ci hai pensato e me lo volevi gridare, lo so, però li diciamo ora, recuperiamo subito. Non dimenticate che si può interagire con noi, anzi noi vogliamo che ci dite il vostro parere telefonando allo 02 345 2656, oppure potete dare dei messaggi direttamente sul cellulare di Leandro, che 0486 941129, 0486 941129. Ma qua c'è Rossella che dice: ciao ragazzi, qui arriva la primavera, io prendo la febbre, ma com'è? Almeno voi mi fate compagnia, olè, forza forza, più pondi per tutti. Ciao Rossella. Brava Rossella, certo, più fondi per tutti. Ora andiamo ad addentrarci nella discussione, ma prima volevo finire di dare i contatti perché non potete solo telefonarci, non potete soltanto mandarci messaggi, ma potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook Rossella virgola Tiziana e Leandro on air. Mi raccomando, scriveteci come ha appena fatto Rossella, siate in tanti, vogliamo sapere cosa pensate di questa bella discussione che stiamo iniziando a intraprendere. Allora adesso è il momento di presentare i nostri ospiti. Sì, che stanno fremendo, tra l'altro, dice: ma come, ci avete invitato e ancora non ci fate parlare? Su, forza, facciamoli parlare, E Leandro. allora, dalla Puglia, Valerio! Ciao Valerio! Confurae! Ciao a tutti, grazie dell'invito. E dalle Fiandre, signori miei, Elisabeth! Buonasera. Ciao. Avete sentito questo fiammingo proprio. Che non si sente? Puro, Ma che fiammingo, cioè, parli l'italiano Elisabeth, perfetto, ma un'altra magari noi italiani riuscissimo a parlare un fiammingo perfetto come il suo italiano. dimostrazione di fiammingo, Elisabeth. Dici Ma ciao in fiammingo. Posso dire un ciao? Sì, hallo allemaal. Goedenavond. Sì, ecco, qui è mi nato. sa tanto Io ho del Buonasera, fiammingo. qualcuno l'avrà capito forse. Ciao, Ciao ciao Elisabeth, ciao. ciao Valerio. Ciao. E allora già un ponte bello lungo si può iniziare a lanciare, perché dalla Puglia alle Fiandre, caspita, ce n'è di distanza. Altro che lo stretto. Infatti. Eh sì. Com'è che vi siete conosciuti tutte e due, uno in Puglia e uno in Fiandre? Guarda, io sono andata in Italia per lo studio, diciamo, e ci siamo conosciuti con Valerio all'Oppiano vicino a Firenze, dove abbiamo studiato insieme in pratica. E anche Valerio è salito, diciamo, dal sud dell'Italia, all'Oppiano vicino a Firenze, e così Diciamo, lì avete ci fatto siamo incontrati. metà strada vi siete incontrati più o Più o meno meno. è così, Più o meno sì. eh? Sì, Sì. sì, sì. Ho capito, quindi in campo neutro, diciamo. Proprio così, Ma per veramente. Elisabeth Firenze era un ritorno. Sì, perché ho già fatto l'Erasmus, diciamo, la mia storia con l'italiano è iniziata proprio qui in Belgio, perché ho studiato le lingue a Leuven, a Lovagno prima, e poi volevo ancora, diciamo, Migliorarle approfondire un po' ulteriormente. l'italiano, sì. Così l'ho spiegato a mio papà per poter partire un altro anno all'estero, più che altro. E così ho trovato questo studio così a Firenze, quindi sono ripartita per 2 anni allo piano, dove tutto è iniziato per noi, insomma. E anche io. Diciamo le cose come stanno. Insomma, non sono amici, non sono conoscenti, non sono sì. fidanzati, sono sposati. Ecco, da questi nostri amici. Sono, sì. Tra l'altro, novelli sposi. Sì, sì, veramente. Sì. In agosto ci siamo sposati, quindi. Auguri, ancora freschi. Auguri! Sì, ancora freschi, freschi. Quindi, Valerio, vi siete conosciuti? Sì, ci siamo conosciuti a Loppiano. Io anche sono partito da Taranto. Per studiare, lì c'è un'università, ho studiato insieme a Elisabeth, era una laurea specialistica, senza mai immaginare che un giorno mi sarei trovato con voi qui a Bruxelles. A parlare quindi, della vostra... Sì, non avrei mai immaginato un giorno di abitare all'estero e men che meno di formare una famiglia in un altro, come dire, in un altro paese, ma insomma sono le sorprese della vita. Bisogna aprire la strada, sì. Aprirsi a tutte le possibili strade. Sì, sì, sì, sì. Ma allora, scusatemi, voi a Loppiano, che ci facevate? Cioè, che Loppiano è un paese... C'è un'università. C'è un'università. Ecco, diciamo, Loppiano che cos'è? Loppiano è una piccola cittadella, un villaggio vicino Firenze. Turistico. No, al Pitour. No. Ah, lì è l'influenza del francese, un village. No, è un piccolo paesino, diciamo, vicino Firenze, a una ventina di chilometri, nel comune di Incisa Valdarno. Spesso quando si ascolta la radio in Italia ci sono file tra Incisa e voilà. E niente. Voi ci siete rimasti. Noi siamo rimasti lì 2 anni. Attivi nel traffico proprio. Bloccati al casello senza smuoverci. E in pratica Loppiano che cos'è? Loppiano è appunto è una cittadella che rappresenta un po' un sogno, una scommessa di Chiara Lubich che ha fondato un po' di anni fa quello che è conosciuto come il movimento dei focolari. E a Loppiano cosa si fa? Loppiano rappresenta un po' una scommessa in che senso? È quello che potrebbe essere la nostra società, la realtà in cui viviamo, se tutti provassero a vivere per la fraternità, in questo senso a costruire dei ponti. E questo si mette in pratica in modo molto concreto, ci sono circa 1000 persone che abitano lì, chi per un periodo breve, chi per un periodo più lungo, ma ci sono delle aziende, chi per studiare, ci sono delle aziende, ci sono dei complessi, dei gruppi musicali. Ecco, questo ideale di fraternità si traduce in cose molto concrete. Nelle piccole cose della vita. E c'è anche un'università che, come dire, raccoglie questo spirito di dialogo per cercare di mettere in dialogo, appunto, in comunicazione i saperi tra di loro. E noi abbiamo studiato in questo contesto, in questa università, abbiamo fatto un master, una laurea specialistica. E così ci siamo ritrovati, conosciuti sui banchi di questa sui università. Banchi di scuola. E sì. Abbiamo costruito dei ponti molto bene tra di noi. Sì, infatti, sì. Un ponte bello solido, sì, devo sì, dire. Sì, sì, sì, sì, sì. Non si è mai più staccato. Così. Insomma, avete appreso alla lettera, avete preso alla lettera gli insegnamenti appresi all'università. Diciamo, abbiamo cominciato, sì, a metterli ecco, in pratica. Punto, sì. Avete cominciato da un punto ben preciso. Sì, sì, sì. A mettere in pratica... Le nozioni basilari della veramente. Fraternità e dell'amore vicendevole. Ma per esempio, Elisabeth, ci puoi raccontare qualche cosa che hai vissuto tu a Loppiano, per esempio, una cosa che vuoi raccontare, come si vive là? Ma guarda, come Valerio già diceva, è veramente, diciamo, è una città in piccolo, c'è tutto, ci sono i negozi, ci sono le scuole, c'è l'asilo nido, insomma, e quindi è come... Veramente come una città un po' piccola, ma quello che mi ha sempre colpito molto è che lì senti come sarebbe il mondo se ognuno facesse un passo verso l'altro, nel senso che si tratta di piccole cose, no? Di voler bene a chi passi accanto, a non essere indifferente a chi passi accanto più che altro, e semplicemente qualche volta dire ciao, come stai, senza aspettarti bene, grazie, che l'altro passi, no? Ma veramente chiedere come stai per sapere come sta veramente, prendere il tempo di scoprire quello che vive l'altro, diciamo. Sono degli esempi molto piccoli così, ma che fanno capire che se ognuno fa quello sforzo che è veramente possibile vivere quella fraternità della quale parliamo anche stasera, insomma. E penso che quella è una cosa che mi porto nel cuore per tutta la vita, che basta poco per creare, costruire dei ponti veramente, ecco, questo... Così, in due parole, perché dopo 2 anni di vita lì ci sarebbe tanto da raccontare, ma quello forse è ancora un aspetto che Valerio prima non ha detto, è che comunque è un'università internazionale, intendo dire. Quindi perciò c'ero io come belga, c'era Valerio come italiano, però c'erano persone di tutti i continenti, dal Brasile, dall'Asia, insomma c'era veramente qualcuno di ogni paese quasi. E quello anche fatto che il mondo unito lì viveva insieme, insomma, e questo è veramente un altro aspetto, penso che per me era anche molto importante conoscere altre culture, conoscerle fino in fondo, se vuoi, e poi anche imparare a vivere insieme, che quello è tutto un altro capitolo da raccontare, come si prova a vivere insieme con qualcuno dell'Asia che la mattina si prepara il riso e frigge la carne, quando tu fai solo dei cereali con latte, per fare un esempio, caffè, come si pulisce, come veramente tutto era diverso. Però anche lì veramente vedere anche il bello in quello che facevano gli altri nel loro modo, insomma, senza voler sempre giudicare e pensare ma io in Belgio facevo così, noi belgi siamo più bravi in quello perché vedi quelli lì pensano di aver capito tutto, però invece, e poi se si supera la prima fase magari di veramente che vedi degli stranieri attorno a te, poi impari anche veramente a conoscere l'altro e a dire ma guarda che non è così stupido quello che fai, magari nel venirsi incontro, valorizzare la differenza, alla fine è come se avessi davanti un prototipo di un progetto meraviglioso, bellissimo, che sembra irrealizzabile, però lì hai il prototipo che funziona, quindi non hai scuse, cioè tu vedi che può funzionare, cioè c'è un principio che si può mettere in pratica, che è messo in pratica nel piccolo, ma si potrebbe mettere in pratica in una situazione, in un contesto molto più grande, e funziona, è la dimostrazione, è una cosa bellissima, una cosa che cattura. È proprio quello, veramente, sì, perché è veramente molto in piccolo l'esperimento, però quello fa vedere, insomma, che veramente il mondo unito è possibile, ecco. Ecco, e allora con queste parole vorremmo allora mandare una canzone che dice che, insomma, noi possiamo fare delle nostre anime un insieme di costellazioni. E allora ascoltiamo questa canzone che si chiama appunto Costellazioni del Gen Rosso. A voi. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Anche stasera, con i colori dell'anima, siamo Tiziana e Leandro. Salutiamo ancora una volta Rossella, che speriamo si riprenda presto e si unisca a noi per la prossima volta. E stasera parliamo di ponti, e di ponti di fraternità. Abbiamo due meravigliosi ospiti. Ingegneri. veri ingegneri sociali. E vi raccomandiamo, ragazzi, di mandare di sms, scriverci. Di scriverci, di pubblicare su Facebook. Telefonateci, qualcuno ci telefoni, ci dica cosa ne pensa. Ecco, magari ridiamo il numero Facebook. Allora per telefonarci, che è il mio cellulare, che è 048694. No, al tuo cellulare dovrebbero scrivere un sms. Sì, è vero, avete ragione, scusa. Sms al 048694129. Oppure telefonate allo 02345 2656. Oppure scrivete sulla pagina Facebook Rossella, virgola, Tiziana e Leandro O'Neill. Ma nessuno ci ha scritto, Leandro. Nessun altro si è fatto sentire. E poi appena arriveranno i commenti, poi ve li darò. Okay, allora, continuiamo con la storia dei nostri carissimi Valerio e Elisabeth. Quindi praticamente li abbiamo lasciati fermi nel traffico per 2 anni a Loppiano, una cittadella in mezzo alla Toscana, dove hanno dove sono stati catturati da questo ideale del movimento, ideale di fraternità, di unione. E poi come l'avete messa in pratica questa enorme energia che avete assorbito quando eravate lì? Beh, diciamo che dopo gli studi lì dovevamo decidere, perché nel frattempo ci eravamo fidanzati, eravamo già insieme da 1 anno e mezzo quando abbiamo finito gli studi, tutti e due, quando ci siamo laureati lì, lo stesso giorno tra l'altro. E, che bello! Sì, veramente. Sì, sì. Era romantico? Beh, romantico, diciamo, con lo stress che sentivamo in quel giorno, c'era poco romanticismo, però era bello poterlo fare anche insieme dopo un percorso fatto insieme di 2 anni. E poi dovevamo decidere decidere, ognuno torna nel suo paese per un periodo, o facciamo un passo insieme, insomma, poi abbiamo deciso di venire insieme in Belgio, per vari motivi, perché anche Valerio doveva ancora fare un master e voleva comunque andare a un'altra città che Lecce, dove aveva studiato prima. E così diceva, vabbè, se vado al nord dell'Italia, non so dove, potrei anche, o in altra città più lontana di casa mia, potrei anche andare in Belgio, tanto vale muoversi per appunto. Muoversi a questo punto. Sì, comunque non rimaneva a casa, quello era sicuro. Invece io avevo possibilità di iniziare a lavorare, quindi perciò abbiamo detto, allora torniamo in Belgio, almeno per un periodo, perché io avevo anche sentito, e poi così torniamo anche un po' al tema, no? Che essendo in Italia per 2 anni, sentendoti quasi italiana nel mio caso, capivo anche molto come ragionava Valerio, come lui pensava, come magari gli italiani, senza generalizzare, no? Però culturalmente c'erano delle differenze tra noi due. Certo. E invece abitando lì anche tante cose le ho capite, capivo le sue reazioni qualche volta una cosa che io dicevo, capivo la mia reazione anche da belga qualche volta a quello che lui diceva o faceva, e quindi ci sembrava importante che lui almeno faceva anche l'esperienza del Belgio per poi vedere dove saremmo andati a finire, insomma, dopo questo percorso che lui doveva ancora studiare qui in Belgio. Così. E quindi avete deciso di andare a Bruxelles, ma perché non avete tu non sei di Bruxelles, come mai non avete deciso a questo punto, visto che tornavate in Belgio, come mai non avete deciso di andare a Bruges, la tua città di provenienza? Guarda, c'erano diversi motivi anche lì, perché Valerio è andato a studiare vicino a Bruxelles, cioè a Louvain-la-Neuve, che è a 20 minuti di Bruxelles, così mezz'ora forse, e quindi da Bruges, da dove vengo io, era comunque più di 1 ora e mezzo, e lui stare a Bruxelles, io a Bruges, a 1 ora di distanza, mentre che lui era venuto per me qui, diciamo, forse facciamo una cosa anche insieme, e mi ha detto, perché non andiamo insieme anche a Bruxelles? E inizialmente era per 1 anno, per 2, finché Valerio finiva gli studi, per poi vedere se tornavamo a Bruges o addirittura in Italia, insomma era tutto un po' vago ancora, però nel frattempo ci siamo proprio innamorati di questa città che è Bruxelles e siamo rimasti qui, diciamo, e ormai sono 3 anni che abitiamo qua. Quindi così. Ma infatti anche Bruxelles è comunque una città insomma internazionale, la città forse più internazionale, insomma una fra le più internazionali del mondo, d'Europa sicuramente. Com'è stato e com'è il vostro vivere qui, voi che comunque avete, come dire, veramente sperimentato anche per 2 anni, no? La vita con stranieri, con persone, immagino anche di diverse religioni, immagino, no? Certo, sì. Ma in effetti Bruxelles era per entrambi una città un po' sconosciuta. Nel mio caso un po' per ovvie ragioni, no? Venendo da Taranto, insomma, non ero mai stato in Belgio, per cui era tutto nuovo. Ma anche per Elisabeth, perché in effetti questo è qualcosa di cui mi sono accorto e che mi ha colpito quasi da subito, la prima volta che sono venuto in Belgio per una vacanza, per qualche giorno durante il nostro periodo all'Oppiano, in Fiandre, questa era un'impressione che ho avuto da subito, Bruxelles era un po' sconosciuta, il riferimento era piuttosto Anversa o Ghent, ma non certamente Bruxelles, e questa cosa mi colpiva, perché dicevo, ma in fondo in Italia, anche se Roma è comunque una città di riferimento. Certo, la capitale, se vai a Roma, a Firenze, a Torino, sei comunque nel tuo paese. Ecco, e in Italia però ci sono delle distanze molto più lunghe. Bruxelles da Bruges è 1 ora di treno, dicevo, ma come mai? E questa cosa era qualcosa che mi ha colpito da subito, no? Però ci è sembrato che Bruxelles potesse essere il posto giusto in cui, come dire, in cui mettere su casa, diciamo così, in senso figurato, no? E in effetti si è rivelata la scelta giusta per entrambi. Bene, benissimo. E allora avete proprio cercato di mettere in pratica quello che avevate appreso, quello che avevate assorbito all'Oppiano, proprio in una città in cui l'elemento multiculturale era fortissimo. Eh sì, e poi all'inizio non era del tutto facile, perché insomma io non parlavo francese né fiammingo, quindi sono arrivato con il mio italiano e qualche nozione di grammatica francese, ma anche per Elisabeth era, ma lì potresti raccontare forse tu, no? Qual è stato il tuo impatto patto, diciamo così, con, sì, la, con la vita a Bruxelles. Sì, sì. Allora, cioè, per ognuno era anche una cosa che ognuno ha vissuto un po' per sé, penso, per le differenze, perché Valerio era entrato come italiano, certo in un contesto internazionale, perché c'erano tanti altri italiani, abbiamo scoperto. Sì, qui a Bruxelles non c'è il rischio di sentirsi soli, di sentirsi espatriato. Appunto, no, ma tanti, diciamo, che lavorano per l'Unione Europea, per dire, no? Però anche tante persone da fuori, dall'Europa, quindi quell'impatto era forte, di vedere una città veramente multiculturale in quel senso, ma poi anche per me era un po' essere confrontata alla cultura, perché il Belgio, per quanto è piccolo, comunque ha anche tante differenze culturali veramente tra belgi originari, diciamo. Se tu pensi solo ai fiamminghi, i walloni, i bruxellois, sono quasi tre popoli, ma veramente per carattere, insomma. Ed è veramente strano, cioè uno potrebbe, sì, capire che si senta in difficoltà appunto un italiano che va in Belgio piuttosto che una belga che si sposta giusto di pochi chilometri. Sì. Però diciamo che lì gioca molto anche la lingua, penso, la lingua, perché certo. Appunto io, essendo fiamminga, e poi ero appena tornata dall'Italia, quindi il mio francese veramente non valeva molto, quindi era difficile esprimere anche in francese, e poi qui non si parla tanto il fiammingo come il francese, quindi un po' anche per me era come essere veramente in un altro paese, e qualche volta sentire anche la difficoltà come fiamminga di esprimersi, di poter parlare nella mia lingua, una cosa che si sente molto anche nei media, che qualche volta anche viene un po' raccontato in vari modi, no? Nei media, poi lo sento proprio sulla mia pelle, che non era sempre facile, però anche lì, penso Valerio da italiano, io da fiamminga, ci siamo proprio detti, ma dopo tanti anni anche vissuti così insieme con tanti, con persone di ogni continente, cosa vuoi che sia abitare insieme a Bruxelles, due europei, ce la faremo, e in effetti ce l'abbiamo fatta, insomma vi siete ambientati, mi sembra pure bene, perché si traspare proprio l'amore che avete per questa città. Veramente, sì. E come siete riusciti a mettere i primi ponti di fraternità qui? Cioè, le prime esperienze che avete avuto al lavoro, per esempio, perché comunque Bruxelles è una città dove o vuoi o non vuoi vivi sempre a contatto con culture, religioni diverse, non lo so, Valerio. Ma per me, per esempio, io quando sono arrivato ho iniziato abitavo a Bruxelles, appunto, ma ho cominciato a studiare di nuovo, a fare un nuovo master, una nuova laurea specialistica a Louvain-la-Neuve, e quindi facevo un po' la vita da pendolare tra Bruxelles e Louvain-la-Neuve, ed è stato per me molto, molto interessante, perché, come dire, c'era questa sfida anche di imparare il francese, di imparare la lingua. Alla fine, per costruire ponti, se non sei in grado di comunicare, di parlare la lingua, ti senti un po' limitato, no? Per cui in me sentivo forte questo desiderio di imparare al più presto le due lingue, per il fatto anche che Elisabeth è fiamminga, no? Quindi sentivo in me il desiderio di imparare al più presto le due lingue, per cercare di, appunto, eliminare le barriere con gli altri. E spesso le barriere sono soprattutto a livello della comunicazione, no? Piuttosto che su grandi... che forse la prima sulla barriera, quella della magari. Comunicazione. Ma adesso come va il fiammingo, Valerio? Adesso va bene, nel senso che, cioè, no, non è perfetto, nel senso, ma... che non parlate in fiammingo, parlate in italiano. In questo momento sì, va benissimo, perché parliamo in italiano, quindi... No, ma io, per esempio, all'inizio parlavo solo inglese, quando andavo a casa di Elisabeth o con gli amici, era tutto in inglese. Però era strano per me, perché eravamo un gruppo magari di 10 e si parlava inglese per me, e questa cosa a me non piaceva, perché io dicevo, no, io voglio parlare io la loro lingua, anche se un po', ma non voglio che gli altri parlino una terza lingua a causa mia. E così... quindi la prima cosa che ho imparato è come ordinare una birra in fiammingo, è anche essenziale se vuoi fare amici, insomma. E poi dopo, comunque hai seguito delle lezioni, adesso parla benissimo. Benissimo, ancora no, ma è una come dire, un allenamento che continua. È un percorso, continua, come sì. In ogni cosa. Sì, sì. E in effetti mi piace questa cosa, soprattutto perché la prima cosa che ho imparato è ordinare una birra in fiammingo, giustamente, ecco. Cosa poteva fare soprattutto in Belgio. Cosa puoi dire a un fiammingo? Ma qua abbiamo i nostri ascoltatori e alcuni commenti. Grazie, perché costruire ponti non è semplice. ma voi ci riuscite e siete fortissimi insieme. Avanti in questa bellissima esperienza, Annalisa. Bello. Su queste parole di Annalisa, che ringraziamo e salutiamo, mandiamo un'altra canzone, una canzone che ha scelto la nostra giovane coppia di amici, è Waiting on an Angel di Ben Harper, e che dice... Parla in modo gentile ad uno straniero, perché non sai mai se è un angelo che viene a bussare alla tua porta. Ecco a voi, Ben Harper, Waiting on an Angel. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio ai Colori dell'Anima con Tiziana, Leandro e i nostri due meravigliosi ospiti, Valerio ed Elisabeth. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone e subito prima stavamo parlando con Valerio delle sue difficoltà di integrazione qui a Bruxelles. Ma prima leggiamo un po' di commenti del nostro pubblico, che ecco, ho ricevuto un messaggio. Grazie del messaggio, appunto. Oggi più che mai necessario in un mondo così frantumato dalle divisioni. Santino e Marietta. E un altro messaggio su Skype. Ciao Santino e Marietta. E un altro messaggio su Skype. Grazie per la bella chiacchierata di questa sera e grazie a questa simpatica coppia italo-fiamminga per la loro esperienza. Paolo. Ciao Paolo! Ciao Paolo, grazie per ascoltarci. Siate numerosi, continuate a scriverci, mi raccomando. E allora, noi nel frattempo continuiamo a parlare con Valerio. Ci dicevi delle tue difficoltà nell'integrarti qui a Bruxelles, però le difficoltà non sono state dovute soltanto alla tua integrazione nella vita personale. È stato anche difficile dal punto di vista lavorativo, perché tu... Sì, certo, poi appunto terminata questa fase dello studio si trattava di, insomma, bisogna cercare un lavoro, ecco, per poter restare anche in Belgio e anche restare un po' sulle mie gambe, certo. No? Senza appoggiarmi su Elisabeth. E mi sono lanciato in una sfida che continua ancora oggi, ed è quella dell'insegnamento. Io insegno la religione in due scuole diversissime di Bruxelles, insegno alla scuola europea, quindi... un pubblico particolare, un figli, certo standard, sì, anche figli dei funzionari europei, ecco. E poi insegno in una scuola di Don Bosco, una scuola salesiana, una scuola tecnica e professionale, quindi un pubblico completamente diverso. Per la maggior parte, almeno nelle mie classi, io insegno religione cattolica, ma la maggior parte dei miei alunni sono musulmani. Diversi sono non credenti, diciamo che i credenti sono delle mosche rare nelle mie classi. È tosta insegnare religione quindi in una classe multiculturale. È veramente una sfida, diciamo, cioè, se si vogliono far passare certi messaggi, bisogna fare un po', come dire, mettersi in un certo senso a livello dei ragazzi. Non pretendere che i ragazzi arrivino quindi lanciare ponti. Ma vuol dire alle volte, come dire, cercare di farsi il più possibile comprensibile, di rendersi comprensibile, chiaro e prossimo, vicino anche alla vita dei ragazzi, ecco, toccarli in ciò che loro vivono e non portarli dove io vorrei arrivare insieme a loro, no, andare a camminare con loro lì dove loro sono, ecco. E immagino che tra l'altro alcuni dei tuoi alunni sono anche di religione islamica. Sì. E com'è il loro rapporto con loro, insomma, da te che sei cristiano cattolico e con loro che sono musulmani, appunto? Intanto per loro, e questa è una cosa interessante qui in Belgio, spesso mi chiedono, soprattutto all'inizio dell'anno, mi chiedono, ma lei prof è credente? Io sono un professore di religione cattolica, mi chiedono se io sia credente, dico, bah sì, almeno spero di esserlo. Spero di rimanerlo per la fine dell'anno. Ecco, sì. Per dire che già per loro non è scontato, questa domanda mi ha fatto capire che per loro non è scontato il fatto che un insegnante di religione sia credente. E io come ho trovato? Ecco, la mia non è una formula magica assolutamente, ma in ogni caso mi permette di andare avanti, ecco, che il corso funzioni con i ragazzi. Cerco di partire sempre da cose molto concrete, dall'attualità, e di... Ritorniamo ai ponti, fare dei piccoli ponti, costruire dei ponti tra l'attualità e dei messaggi che in qualche modo si richiamano alla religione cristiana, ma che si ritrovano anche per esempio nell'Islam o nelle grandi culture e tradizioni spirituali nel mondo. E questo mi permette veramente di poter dialogare con i ragazzi. Ma la cosa interessantissima è stata che forse circa 2 mesi fa ho chiesto ai ragazzi di fare una piccola, come dire, valutazione dei primi mesi di scuola, del corso di religione. C'è stato qualche ragazzo musulmano che mi ha chiesto: prof, vorrei che lei parlasse di più di Gesù, perché se non lo impariamo qui con lei non lo potremo imparare da altre parti. In ogni caso, lui era un musulmano, diceva: Gesù per noi è un profeta. E questa cosa mi ha colpito, perché alle volte da parte mia c'era questo atteggiamento di prudenza, di cercare di non andare troppo in là, di non spingermi troppo in là con loro, di non osare troppo. Invece loro mi chiedono di osare di più. A volte lo facciamo noi tra cattolici. Ecco, sì. Sembra che alcuni argomenti sia quasi diventati un tabù. Sì, sì, sì, sì. Quindi figurati. E poi questo lavoro mi sta permettendo di scoprire una umanità, diciamo così, che poi è un po' l'anima di Bruxelles, tutto il mondo dei, come dire, dei mondo del magrebino qui a Bruxelles, no? Tutti le persone di origine marocchina, di origine turca, che sono un po' il pubblico principale nella nostra scuola Don Bosco. Ed è interessantissimo, perché veramente scoprire anche per me tanti legami. Io vengo dalla Puglia, dal sud dell'Italia, no? E in tante cose io mi sento molto a mio agio con loro, in un certo calore, una certa spontaneità. e certamente pure di noi siciliani che veniamo dal Nord Africa. Appunto. E certamente con i ragazzi costruire ponti è molto più facile. Perché? Perché non hanno pregiudizi, non hanno tante barriere, sono aperti. Ecco, hanno un atteggiamento di apertura. E questo permette di far passare molto di più, ecco, e di avere uno scambio molto molto ricco. E quindi immagino anche quanto stai imparando tu stesso. Sì, io in contatto con queste tantissimo. Persone, con questi ragazzi. Tantissimo, ma la cosa per me più importante veramente è sempre cercare di non veramente di non giudicare. Io sento che sono a scuola per imparare, innanzitutto, e imparare da loro. E spesso sono ragazzi con situazioni terribili dietro le spalle. Un ragazzo, per esempio, in una classe mi raccontava durante le vacanze di Natale che ha passato tutte le vacanze in prigione, perché è stato arrestato per, insomma, per varie cose. Ma ecco, quando sei a contatto con un ragazzo così, che ha vissuto un'esperienza così, lì mancano le parole, perché insomma, cosa gli dici? Avere tanta forza. Cosa gli dici, no? Si tratta di stargli vicino, no? Di capirlo, ascoltarlo senza così. E allora io direi che ti auguriamo un in bocca al lupo fortissimo per proseguire in questa tua strada, però io cambierei un attimo discorso prima della chiusura, perché come al solito il tempo vola. Noi ci siamo tuffati in questa bellissima discussione, avremmo voluto dire mille altre cose, ma forse le diremo poi nel futuro anche, sì, no? possiamo tornare a parlare del movimento dei focolari, di questi principi, di queste belle idee che hanno tanto da dare a chi le mette in pratica. Però in questo momento abbiamo una bella coppia fresca e abbiamo parlato di tante belle cose, ma non abbiamo parlato di voi. Io volevo sapere qualche aneddoto particolare, qualche cosa simpatica che vi è successa quando tu eri in Italia o quando non appena lui è arrivato. Fateci ridere un po', dai, scommetto che ne avete tantissime da raccontare. Ma avremo in effetti tanto da raccontare, poi faccio anche fare, perché lì abbiamo due versioni diverse, diciamo, inizio io così, di alcune cose che evidentemente per prendere un po' in giro gli italiani, non scherzo, no, ma veramente la convivenza è anche quella, diciamo, vivere insieme, vedere che l'altro ha delle abitudini completamente diversi, e inizia dalle piccole cose, per parlare della cucina ad esempio, Valerio da italiano, da bravo italiano, fa benissimo la pasta, il risotto. Io provo e ormai mi riesce anche, però mi ricordo le prime volte che facevo la pasta, ho abitato anche insieme con degli italiani, anche prima di conoscere Valerio, e quando mettevo l'acqua bolliva, io mettevo un po' di sale come ero abituata a fare, dicevo no, più sale, non bastava mai il sale che mettevo, e quando io preparavo la pasta, secondo me, come lo facevano loro, no, non ci piace questo, è troppo belga, è troppo salsa, troppo questo, così, però devo ammettere che quando la fa Valerio, è sempre meglio, no? Quindi noi scherziamo sopra su questa cosa, tante cose, come si prepara il caffè, insomma, però imparo anche imparato, tanto. Hai imparato a preparare veramente il caffè? Sì, ormai sì, dopo un piccolo episodio con il papà di Valerio ho imparato, perché mi ricordo che quando loro sono venuti allo piano ci siamo conosciuti per la prima volta, io ho preparato il caffè la mattina così anche per loro. E mi ricordo che a un certo punto volevo versare il caffè e ha detto il papà di Valerio: hai girato, vero? E io ero lì e ho detto: hai girato? Cosa intende? E quindi loro a casa girano nel caffè, nella macchinetta, no? Il Bialetti, sì. Così girano dentro. Ancora non ho capito perché. Sei un italiano, vuole mandare un messaggino anche per quello, perché spiegate, si gira il caffè. Qualcuno mandi un post, spieghi ad Elisabeth perché si gira il caffè. Però, che motivo ma c'è? Lui era molto carino, cioè, lo diceva senza pensarci, solo che io dicevo, oh no, oddio, perché il primo oddio, incontro, ho fatto qualcosa di e ho detto, adesso non mi fa sposare con suo figlio perché non so come fare questo caffè. Ma era veramente ridicolo da parte mia, però mi ricordo che sono queste cose che ti... Ed è stato così grande lo shock che ormai Elisabeth gira sempre il caffè. Se qualcuno non lo fa, mi arrabbio. E invece quando stavamo arrivando, eravamo in auto, tu mi raccontavi quando all'inizio hai iniziato a guidare, ad avere Valerio accanto, cosa succedeva? Ah sì, quello, sì, perché beh, diciamo, è anche un piccolo episodio, però mi ricordo che Valerio, per essere gentile, veramente per volermi bene, mi diceva qualche volta, ok, a destra va bene, puoi andare, non c'è nessuno, solo che io mi offendevo, perché dicevo, ma cos'è, perché io non sono una donna, che pensi che non so guidare, così mi arrabbiava con lui. Sì, e poi dopo invece sono andata qualche volta anche in macchina, ad esempio con sua famiglia, con i fratelli, così, o con i genitori, che anche loro si aiutavano reciprocamente, uomo donna, donna uomo, quindi io ho detto, ah, forse non è una cosa, non devo far uscire sì, il mio femminismo, capita non so. Dire magari, ah sì, puoi andare, sì. Aiutare, anzi mio padre per esempio, paperino bello, ti saluto, mio padre mi riprendeva sempre, ma non è che lo faceva per riprendermi, era un modo di aiutarmi, appunto, sì, e così diciamo, questa cosa anche l'ho scoperta, adesso mi fa anche piacere, anzi le chiedo, ma mi aiuti? E ho detto, no, non lo so più. Quando ho bisogno anche non dice più niente, sì. E mio padre, come madre, anche io li saluto, praticamente certe volte negli incroci usciva proprio dal finestrino dicendo, fermatevi. O anche Elisabeth può raccontare del riscaldamento. Io? No, ma questo è un punto tuo, perché Valerio prende sempre in giro i belgi perché abbiamo così poco riscaldamento. Noi siamo un po' abituati, no? Ad esempio le stanze su dove si dorme, secondo noi è più sano, a casa mia ad esempio, non mettere il riscaldamento. Quindi effettivamente giù sono 20 gradi, bello caldo, no? Sei anche in maglietta, anche in inverno. Poi sali su per cambiarti, per metterti il pigiama, insomma. E fa freddo. E sono forse 10 gradi. Così Valerio ogni volta che andiamo a casa mia a dormire, ogni volta me lo ripeto, ma perché quando qui ci cambiamo, ci dobbiamo congelare? Ma non lo capisco. E anche a casa nostra effettivamente io preferirei non accendere. Ti immagino in più, che ci vuoi fare? Sì, paziente. Sì, farò così. Non ci sono grandi speranze. Mi sa tanto però che ora dobbiamo chiudere, è stata bella la chiacchierata, sono state divertentissime le vostre storie, i vostri racconti, molto profondi anche nella vostra esperienza, in quello che ci avete raccontato. Noi vi ringraziamo per essere venuti. Ma poi se qualcuno vuole sapere di più, insomma, su questo movimento di cui avete un po' accennato, questo movimento dei focolari, ci sono altri modi per... come dire, per accostarsi. Ecco, sì, guarda, per il Belgio si può andare sul sito www.focolare.be, e lì trovate anche delle informazioni sul Belgio, e poi da lì anche si può andare al sito italiano, che adesso non mi ricordo ora, memoria, ora mettiamo però. Tutti i riferimenti ora Leandro mettiamo tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, così chiunque voglia avere maggiori informazioni ci può contattare o può direttamente andare sul sito. E adesso chiediamo a Valerio di lanciare una canzone che per Valerio ed Elisabeth è speciale. Aspetta, il colore, non possiamo dimenticarci il colore della serata. Allora, per me non sarò originalissimo, ma è l'azzurro. L'azzurro, e per te Elisabeth? Il giallo. Azzurro e giallo, bello, mi piace, bello. Perfetto, Valerio, allora lancia la canzone e perché? Perché l'hai scelta? Beh, la canzone è Buonanotte Fiorellino di De Gregori ed è una... Forse è la prima canzone che ho in qualche modo dedicato a Elisabeth quando eravamo ancora all'Oppiano. E perché questa canzone? Perché trovo che sia bellissima. E insomma, l'ascoltiamo insieme, dedicata anche a voi, e in modo di ringraziarvi. E per dare la buonanotte a tutti quanti. E ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie e buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Notte.